Ok? Buonasera. Stasera volevamo proporre un po' la discussione questa ricerca che abbiamo fatto sui due settori del lavoro nell'audiovisivo e nell'editoria come ACTA. Un po' anche data la mia età, volevo semplicemente ricordare che queste riflessioni sulle trasformazioni del lavoro e sui problemi che questo pone, soprattutto sul piano delle tutele e sul piano, insomma, dire, di difendersi dallo sfruttamento, queste riflessioni sono nate in Conchetta, insomma, sono nate al tempo ancora di primo, all'inizio degli anni 90, con la rivista Altre Ragioni, rivista che inizialmente aveva visto la partecipazione anche di gente come Franco Fortini, Giovanni Cesareo e così via. E poi è andata avanti con la pubblicazione del libro curato da Andrea Fumagalli e da me, Il lavoro autonomo e seconda generazione, ma diciamo tutte queste belle idee non avrebbero avuto nessun peso, nessun senso se non fosse nata appunto per merito di Anna Soro e di altri suoi colleghi nel più o meno nel 2004 questa associazione di rappresentanza, diciamo, dei freelance che si chiama ACTA, che voleva dire all'inizio associazione consulenti terziario avanzato, poi adesso l'abbiamo chiamata associazione dei freelance punto e basta, che comunque in questi anni ha fatto qualcosa, insomma, ha ottenuto anche da parte, diciamo, dei provvedimenti governativi delle cose che hanno migliorato la situazione di chi lavora con partite IVA, eccetera. Questa ricerca qua naturalmente si addentra in un paesaggio invece molto più complesso, perché qua noi pensiamo che il mondo possa essere diviso in lavoro dipendente e lavoro autonomo, invece non è così, cioè c'è un sacco di forme intermedie che molto spesso servono certe volte, certo, a rendere più flessibile, ma molte volte proprio a fregare la gente, insomma, sui problemi di diritti d'autore e così via, eccetera. Quindi, insomma, sono problemi complessi che però, secondo me, possono essere affrontati con una coalizione, possono essere affrontati quando la gente si mette insieme, ci riflette su, dice ma è possibile che non riusciamo a fare niente. E invece si riesce a fare qualcosa, come per esempio loro che hanno costituito questa azione che si chiama Redacta e che si occupa soprattutto della questione, diciamo, della editoria, del lavoro nell'editoria libraria. Ecco, quindi io non vado avanti, vicino a me, diciamo, c'è Anna Soru, presidente di ACTA, Mattia Cavani che ha messo in piedi questo Redacta e Silvia Gola che è di Redacta, e noi quattro, diciamo, abbiamo più o meno gestito sta ricerca che è consistita in interviste 60? 50. Per questa 51. 50 interviste approfondite, diciamo, con persone che lavorano nel suo settore, cioè interviste di un'ora, un'ora e mezza, e da qui abbiamo tratto una. Il libro poi che è stato pubblicato dalla Fondazione Brodolini come ebook, che potete scaricare tranquillamente, poi contiene invece una serie di contributi di giuslavoristi. Questa cosa secondo me è un valore aggiunto perché loro hanno dato una serie di suggerimenti anche per, come dire, possibilità di migliorare certe tutele e così via. Quindi è un testo che secondo me alla fine potrà produrre anche qualcosa di concreto, insomma, sul piano della difesa del lavoro. Adesso sei tu, Mattia, che parli? Sì. Mattia Cavani. Vabbè, faccio. Tanto buonasera. Faccio un attimo introduzione. Allora, siamo partiti con questa inchiesta qui a novembre 2020, quindi un po' di tempo fa. È partita da un'intuizione di Sergio che, guardando dei dati dell'osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana, si era accorto che c'era stata questa esplosione di lavoro nell'ambito dell'audiovisivo. E quindi abbiamo detto, vabbè, è un po' che volevamo studiare, cominciamo. E quindi la ricerca è cominciata molto con in mente la pandemia, il Covid e le peculiarità di quel momento lì, che in effetti aveva cambiato anche l'organizzazione del lavoro, tante cose ovviamente. Solo che poi, cominciando già dalle prime interviste, ci siamo resi conto che c'erano dei temi molto più ampi, molto più, insomma, rilevanti anche su un orizzonte temporale più ampio che ci interessava studiare. Allora, l'idea di oggi è questa. Vi raccontiamo un po' la nostra ricerca E poi insomma, l'obiettivo principale è ascoltare un po' anche i vostri interventi, insomma sappiamo che comunque anche questo posto sono tante persone interessate a questo ambito sia a livello lavorativo che non, quindi insomma sembra il posto migliore per fare la prima presentazione. E allora, quindi darei la parola a Anna che dovrebbe rispondere alle prime due domande che trovate forse nel volantino, che sono sostanzialmente qual è stato l'impatto dell'innovazione tecnologica in questo ambito, sulle condizioni di lavoro e appunto come si lavora, come abbiamo visto che si lavora in questo settore. Grazie, buonasera. Cercherò di essere un po' sintetica perché non dilungarmi troppo. Comunque il nostro obiettivo era capire come cambia il lavoro, quindi non come cambia il settore, ma come cambia il lavoro, però abbiamo anche dovuto cercare di capire un po' come cambiava il settore. Abbiamo visto che le tecnologie digitali hanno avuto un forte impatto, ce l'hanno detto un po' tutti quelli che abbiamo intervistato. Alcune di queste conseguenze sono state viste in maniera molto chiara dagli intervistati, altre un po' meno. Vediamo intanto quelle che sono viste in maniera più chiara dagli intervistati. Che è proprio l'impatto delle tecnologie sul modo di lavorare, sulle condizioni di lavoro, l'impatto diretto, diciamo. Come premessa, questo è un settore che da sempre è caratterizzato dal fatto che si lavora a progetto per tempi definiti, quindi da precarietà, e proprio perché da sempre è caratterizzato da queste situazioni, è previsto un inquadramento specifico particolarmente tutelante, che è l'inquadramento dello spettacolo. Che ha due caratteristiche, alcune caratteristiche che lo rendono proprio peculiare. Il fatto che, indipendentemente dal fatto che uno sia dipendente a tempo determinato o autonomo, i contributi sono pagati dal committente. E poi si può rifare, diciamo, con una rivalsa per circa il 30% nei confronti del lavoratore, però sono pagati dal committente. Mentre nel lavoro autonomo normale, diciamo, i contributi sono pagati dal lavoratore. E la seconda differenza è che nello spettacolo ci sono dei contratti collettivi che definiscono una serie di tutele per i dipendenti, definiscono anche esattamente le diarie e i compensi, e questi diarie, questi compensi sono dei riferimenti che nella prassi sono utilizzati anche nel lavoro autonomo. Quindi è un ambito, ripeto, che è tutelato. Cosa è successo con la digitalizzazione? Quello che ci hanno raccontato un po' tutti gli intervistati è che queste tecnologie hanno permesso di ridurre i costi degli strumenti, di rendere più semplici le attività, di eliminare il supporto fisico perché non abbiamo più la pellicola e questo vuol dire poter sperimentare, poter correggere. Cosa che prima invece aveva un costo, e in pratica ha eliminato tante di quelle barriere all'ingresso nella professione che prima esistevano, che rendevano la professione un po' elitaria, ha permesso l'accesso a tantissimi. Quindi ha ridotto sia la barriera di competenza, perché uno può entrare più facilmente nella professione, sia la barriera, diciamo, anche di capitale, perché lo strumento costava di meno. Questa, che viene chiamato processo di democratizzazione, però ha anche il suo risvolto negativo. Il fatto che la professione vale di meno, ci sono più persone che la fanno, si è più sostituibili, diminuisce il potere contrattuale. E infatti questo processo è stato accompagnato anche da una caduta dei compensi, da un peggioramento delle condizioni. Una caduta dei compensi che è stata meno drammatica di quella che abbiamo visto in altri settori, pensiamo ai giornalisti, all'editoria libraria o altro, cioè comunque è un settore che ha tenuto molto di più degli altri, ma in cui comunque c'è stata. Com'è che si è realizzata questa caduta dei compensi? Si è realizzata con diverse modalità. Una prima modalità è che si paga soprattutto il lavoro che è visibile, quindi quello sul set, non quello di preparazione o quello che viene dopo. Questo vuol dire pagare un po' meno giornate. Un'altra modalità è quella di spostare il lavoro dal dipendente all'autonomo, che non costa molto diversamente, però nel lavoro autonomo ci sono un po' più di margini per forfettizzare i costi, ci sono un po' più di libertà che non ci si può permettere con il lavoro dipendente. E la terza modalità, che è quella più furba, è quella di non inquadrare le persone come lavoratori dello spettacolo, di farli uscire completamente, quindi inquadrarli o come artigiani o come lavoratori iscritti alla gestione separata, e quindi realizzando quei vantaggi che sono il non dover pagare i contributi come committente e il fatto di non avere più dei parametri di riferimento per i compensi, quindi posso liberamente decidere quanto pagare. O ancora peggio, ricorrere alla collaborazione occasionale dove i contributi non ci sono per niente. Questo processo non ha riguardato tutti i lavoratori del settore, è stato accentuato in alcuni ambiti. Per esempio, non ha riguardato la normale attività cinematografica, non ha riguardato neanche l'attività pubblicitaria con le grandi agenzie pubblicitarie, però per esempio ha interessato, se parliamo di cinema d'autore o di documentari dove i bilanci sono molto risicati, c'è spesso un autosfruttamento e si è uscito da quelli che sono i vincoli del contratto, oppure questo tipo di libertà è stata presa per esempio nei videoclip quando il committente non è l'impresa di produzione o nella produzione di content per la pubblicità web. Okay, man mano però questo che era una piccola falla si sta allargando e interessa sempre più persone. C'è anche un'altra differenza oltre che settoriale, che a seconda del tipo di lavoro che uno fa. Nell'audiovisivo si distingue fra le professioni sopra la linea e quelle sotto la linea, dove sopra la linea sono le professionalità più autoriali, mentre le maestranze sono quelle, diciamo, sotto la linea. Ecco, le maestranze sono riuscite a tenere molto di più rispetto agli altri, perché sono più organizzati, perché il loro lavoro è più facilmente visibile, è sempre sul set sostanzialmente, non fuori dal set, e perché anche non si sono mai fatti fregare dalla trappola della passione, cioè o mi paghi e lavoro o altrimenti non lavoro, cosa che invece ha fregato gli autoriali, che pur di realizzare i propri sogni e di fare il lavoro che piace eccetera, molto spesso hanno accettato e continuano ad accettare delle condizioni di lavoro che non dovrebbero accettare. Tant'è vero che molti di loro si ritrovano a dover fare più lavori contemporaneamente, uno per seguire i propri sogni e l'altro per poter mangiare. Quindi quello che era un processo di democratizzazione potrebbe diventare anche un processo di, invece, che va verso una maggiore elitarismo, perché sempre più un certo tipo di professioni saranno alla portata di chi ha altre possibilità, di chi appartiene a certi ambienti, di chi può contare su rendite, su un reddito familiare e così via. Comunque questo, diciamo, è un po' il percorso diretto, quello che ci è stato raccontato anche da chi abbiamo intervistato. Poi c'è un altro percorso che invece abbiamo un po' più ricostruito noi, che è quello di come è cambiato il mercato e come questo sta influendo comunque sulle condizioni di lavoro. Allora, sicuramente tutti avete sentito parlare di Netflix, di Amazon Prime e così via. Sono un nuovo tipo di imprese, sono imprese piattaforme che si chiamano OTT, che sono cresciute moltissimo per distribuire prodotti audiovisivi streaming. Quindi le condizioni per questa nascita e questo sviluppo sono state la disponibilità della connessione a banda larga e il fatto che ci sia appunto la tecnologia digitale. Sono nate principalmente negli Stati Uniti e hanno avuto uno sviluppo velocissimo. Abbiamo diverse tipologie di queste imprese. Grosso modo possiamo dire che possiamo distinguere fra quelle che si finanziano facendosi pagare dai consumatori e quelle che si finanziano con la pubblicità. Fra le prime abbiamo chi vende gli abbonamenti, come per esempio Netflix, DAZN, Amazon Prime, oppure chi si fa pagare per ogni volta che uno vede un film o un documentario o un altro prodotto visivo, come per esempio Ciri TV o Google Play. E poi ci sono invece quelle che si finanziano con la pubblicità. La più famosa è YouTube, recentemente in Italia è entrata Pluto, però insomma ce ne sono anche qua altre. Cosa ha comportato l'ingresso? Intanto, quanto è stato spaventoso? Pensiamo che soltanto il mercato delle imprese piattaforma con abbonamento è passato in Europa da circa 12 milioni nel 2010 a quasi 10 miliardi nel 2020, quindi è quasi cresciuto di 1000 volte. Quindi una crescita veramente enorme. Cosa ha comportato? Ha comportato che da una parte hanno drenato la pubblicità, perché la pubblicità online adesso supera la pubblicità televisiva, e dall'altra parte hanno fatto una concorrenza molto forte su quella che era la pay TV, in Italia era Sky. Perché hanno fatto una concorrenza molto forte? Perché avevano dei prezzi degli abbonamenti che erano molto competitivi, circa un terzo o la metà rispetto alle pay TV. Ma come hanno potuto fare questi prezzi così competitivi, queste imprese che sono entrate, come hanno potuto entrare in questo modo così aggressivo? Il primo motivo è perché loro non pagano le infrastrutture, usano le infrastrutture delle telecomunicazioni, mentre le pay TV dovevano pagare il digitale terrestre piuttosto che il satellitare. Il secondo motivo è che sono un particolare tipo di imprese tecnologiche, che hanno avuto un accesso molto facile al mercato dei capitali, un mercato paziente che è disposto a sostenere delle perdite consistenti nel breve periodo in vista di profitti ingenti nel medio periodo. E il terzo motivo è che sono entrate subito su una scala globale e hanno potuto sfruttare anche delle economie di scopo molto forti nella distribuzione, e adesso che stanno passando alla produzione anche del potere molto forte nei confronti dei fornitori. Che cosa abbiamo detto? Tutto questo sta portando via le risorse, quindi sia la pubblicità e sia sta costringendo la pay TV a dover competere con prezzi più bassi e con nuovi investimenti. Dove tirano fuori questi soldi? Da qualche parte li dovranno tirar fuori. Il punto più facile su cui agire è il lavoro, cioè si cerca di risparmiare sul lavoro. Quindi un primo, diciamo, un effetto indiretto di questo ingresso è che i player tradizionali hanno meno risorse e cercano di risparmiare. D'altra parte è vero che questi nuovi soggetti creano una nuova domanda, però anche loro non hanno nessun interesse a pagare di più di quello che pagava il mercato, quindi, e non solo, ma si ritrovano in un mercato che, in cui l'offerta continua ad aumentare, perché grazie anche a tutte le nuove scuole di audiovisivo che sono nate in tutto il territorio nazionale, l'offerta di lavoratori nel settore continua ad aumentare moltissimo, e soprattutto è un'offerta che non è organizzata e quindi subisce quello che è il potere di queste grandi società. Potere che al momento si fa sentire direttamente soprattutto sulle società di produzione, e alle società di produzione che pongono dei vincoli molto forti, ma la società di produzione poi si rifà sempre sul lavoro e sempre li torniamo alla fine. Un altro problema che viene posto da questo tipo di società è poi legato a tutto il tema dei diritti d'autore, come accennava Sergio. Loro tendono a farsi firmare dei contratti per cui ogni autore o qualunque figura autoriale che avrebbe diritto a dei diritti d'autore cede tutta la proprietà dei diritti intellettuali al committente, e quindi se anche poi questo avesse un successo enorme non ne ricava alcunché. Adesso c'è una direttiva europea che dovrebbe intervenire su questi aspetti, e stiamo cercando di capire come questa potrà essere utilizzata per difendere chi lavora nel settore. Io credo di aver finito così, perché altrimenti mi dilungo troppo. Va bene, ok. Allora, dunque, il tema è strisciante, ne stiamo parlando dall'inizio in qualche modo, è quello delle coalizioni tra chi lavora. Nelle nostre interviste abbiamo trovato veramente, di tutto, abbiamo trovato sia appunto persone che non credono nella possibilità di coalizione, altre invece già reti più o meno informali, abbastanza strutturate. Quindi, volevo chiedere a questo punto a Silvia, a che punto sono le coalizioni in questo ambito e se ci sono delle possibilità di costruirne di più forti, insomma. Buonasera. Allora, io riprenderei un attimo quello che diceva Anna, ovvero la differenza principale che c'è nell'audiovisivo parlando di professionalità sopra la linea e sotto la linea, perché sono professionalità che differiscono in tanti aspetti. A noi in questo momento interessa parlare ovviamente di quello della rappresentanza. E come appunto già menzionava Anna, le maestranze, quindi stiamo parlando di operatori, attrezzisti, scenografe, diciamo tutte le persone che hanno il proprio mondo lavorativo nel set, dimostrano da tempo una buona tempra nella capacità di mobilitazione e di auto-organizzazione. E il loro lavoro è visibile, riescono ad avere anche, forse è banale, però avere un luogo di lavoro fisico condiviso non è banale quando ci si vuole unire in qualche battaglia. E abbiamo parlato con un sindacalista di SLC-CGL, abbiamo parlato con delle persone che hanno fatto un tentativo di auto-organizzazione in Emilia-Romagna, quindi diciamo che per le maestranze lo stadio della coalizione, ovvero se ci poniamo la domanda che stato di salute hanno le coalizioni tra maestranze, direi buono, perché solo per fare un esempio, nel 98-99, ci hanno detto alcuni dei nostri intervistati, c'è stata un'ondata di scioperi che hanno portato nel momento del rinnovo del CCNL Troupe a porre un tetto agli straordinari. 9 ore al giorno più una in deroga e 57 più 3 a settimana. Questo è stato possibile perché, per quella che è la sensibilità, diciamo, sindacale, protosindacale delle maestranze, l'idea era ce la si fa tutti insieme. Diversa è la situazione appunto delle figure autoriali, dove invece vige un pochino più l'idea che se ce la si fa, ce la si fa da soli, e quindi abbondano quelle che possono essere chiamate strategie individuali, che sono, come sempre menzionava Anna, la diversificazione del reddito, e quindi abbiamo fenomeni di slash worker che magari sono direttori della fotografia nel cinema, ma poi lo fanno anche per la pubblicità, che resta a tutti gli effetti un settore più redditizio, o magari slash worker, quindi che fanno un lavoro più autoriale e poi insegnano o diciamo fanno cose attinenti ma non propriamente lo stesso ruolo, oppure appunto una serena condizione economica di partenza in cui dal loro lavoro autoriale non ne dipende la loro sopravvivenza in termini di pane e acqua. Comunque, se invece la seconda domanda che ci facciamo è non qual è lo stato di salute attuale delle coalizioni, ma quello che può diventare, quindi se vogliamo un attimo intravedere le tendenze, di certo quello che c'è stato soprattutto durante i primi 2 mesi del lockdown, che ha interessato lo stop dello spettacolo dal vivo e soprattutto per i primi 2 mesi minimamente anche quello, diciamo, del lavoro audiovisivo, diciamo cinema, pubblicità e televisione, quello potrebbe essere stato un momento negli ultimi anni in cui un germe di coscienza di classe è più o meno venuto fuori. Abbiamo intervistato delle persone che appunto si sono sapute auto-organizzare facendo porre dei vincoli alle film commission, in questo caso dell'Emilia Romagna, perché arrivavano le case di produzione da Roma, si portavano le proprie squadre, le proprie maestranze, e non davano quindi lavoro sul territorio. Invece queste persone sono partite da una conta delle teste e sono riuscite a fare questo. E, per quanto riguarda gli autoriali, appunto al di là delle strategie individuali, noi abbiamo parlato con Writers Guild Italia, che è essenzialmente il sindacato degli sceneggiatori, che da qualche anno sta cercando di diffondere il più possibile un proprio contratto tipo che hanno stilato a norma di, nel senso credo con tutte le professionalità significative e utili, che garantisce pagamenti certi, cessione dei diritti e del proprio lavoro, che si perfeziona solo quando tutto il dovuto viene saldato, condivisione dei profitti in caso di successo, limiti temporali e condizioni di lavoro chiari e rispettosi della legge sul diritto d'autore. Questo per quanto riguarda gli sceneggiatori. Il sindacalista della CGL, della SLC-CGL con cui abbiamo parlato, ci ha detto che come sindacato stanno prevedendo, per esempio, l'unificazione di alcuni contratti, perché ne vigono tantissimi nell'audiovisivo e ne stanno prevedendo per la prima volta uno per gli attori e per gli stuntmen. Oppure un'altra associazione di tipo più trasversale con cui abbiamo parlato è 100 Autori, che è associazione appunto per autori che possono essere registi, sceneggiatori e soggettisti di tutti i settori possibili, che da 2 anni conduce battaglie, tavoli istituzionali, diciamo, si agisce dal livello magari dello sciopero anche a quello più appunto di dialogo con le istituzioni, e si battono per il welfare degli autori e appunto sono anche riusciti a siglare un accordo con ANICA, che è l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, e APA, che è l'Associazione Produttori Audiovisivi, ottenendo delle vittorie, ottenendo qualcosa di significativo. Quindi questo ci porta a dire che anche in queste figure autoriali si comincia a sentire la necessità di una coalizione. Queste sono realtà che tra di loro si parlano poco, perché sono poi tutti alla fine lavori diversi, condizioni lavorative diverse, però possiamo dire c'è speranza. Una nota positiva. Basta, grazie. Va bene, allora, la nostra idea adesso è di aprire la discussione, insomma, non so se appunto se Andrea vuole dire qualcosa o chiunque altro, insomma. Sì, prego. Sì, molto, molto gentilmente Anna e Sergio, nonché Mattia, mi avevano chiesto di fare un breve lavoro di discussion, diciamo, così si dice all'università che io sono, lavoro in questo settore, che è sicuramente peggiore del vostro, mi sa, no, da questo punto di vista. Io ho letto con molto interesse il report, devo dire che mi sembra di dire, non so se questa è un'impressione corretta o meno da voi che conoscete la materia in maniera molto più approfondita di me, del fatto che mi sembra che questa attività lavorativa, noi non abbiamo parlato del lavoro editoriale vero e proprio, dei giornali, eccetera, perché sì, vi siete soffermati nei vostri interventi più sulla parte audiovisiva degli over the time, degli OTT e tutte le trasformazioni nell'organizzazione. No, ma, però mi sembra che questo sia paradigmatico di un certo tipo di quello che 20 anni fa iniziavamo a chiamare il lavoro cognitivo. E di cui il libro che citava Sergio, Il lavoro autonomo di seconda generazione, è stato nell'ambito delle trasformazioni tumultuose di quel periodo degli anni 90 e dei primi anni 2000, ha messo in luce come queste trasformazioni fossero in grado di modificare quasi antropologicamente la soggettività dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, fuori dagli schemi tradizionali ereditati dal Novecento, per intenderci. In senso positivo, perché si aprivano istanze, è stato molto carino il tema che ha parlato Anna prima di cambiamento tecnologico, processo di democratizzazione, perché questo è stato uno dei temi nevralgici, nel senso che è anche temi, di, oltre che democratizzazione, magari anche di liberazione, cioè una flessibilità lavorativa, uscire dalla gabbia del lavoro salariato. D'altronde la parola d'ordine del rifiuto del lavoro salariato ha una lunga storia che si era sedimentata nelle lotte precedenti, in nome di una flessibilità che fosse positiva, agita e consentisse spazi di liberazione e di autodeterminazione. Purtroppo questa era l'illusione, diciamo, in un certo senso. Lo chiamo illusione perché alla luce di quello che è successo dopo non sempre si è realizzato, anzi, se si è realizzato da qualche parte è stata l'eccezione che ha confermato la regola opposta, cioè che in realtà questa flessibilità, questa istanza di elaborazione si è trasformata spesso e volentieri in una eterogeneità delle percezioni lavorative, quindi una frammentazione molto forte che mette in difficoltà le capacità di organizzazione, di contrattazione. Il tema delle coalizioni è sicuramente centrale, fondamentale, ma spesso si è trasformata poi in una questione di precarietà, incertezza e ricattabilità, poi, che spinge poi alla soluzione di tipo individuale, per chi se la può permettere ovviamente. Quindi questo crea discriminazione, nuove forme di gerarchizzazione, con tutto quello che ricade come un gatto che si morde la coda sulle capacità di organizzazione, no? Allora, dico tutto questo perché voi avete analizzato, faccio il discussant, non prendetevela male, no, avete organizzato tutte, è stata la cosa interessante perché la nostra tradizione ci insegna che bisogna conoscere gli ambiti lavorativi per capire quali sono le contraddizioni, i nodi problematici e come su queste si possa agire in un processo di trasformazione positiva. Io credo che oggi proprio il tema del lavoro cognitivo in generale, che può uscire anche quello dal precario dell'università, dei servizi avanzati, dal consulente, eccetera, eccetera, che ci sono delle cose abbastanza simili, pur, e qui è l'elemento di novità che credo sia fondamentale a prendere coscienza, vissuto e percepito in maniera diversa. Quindi la reazione non è mai la stessa. non è né più l'operaio della casa di montaggio che aveva una percezione omogenea anche venendo da esperienze culturali territoriali molto diverse. La condizione lavorativa ti omogeneizzava. Qui invece abbiamo che la condizione lavorativa ti disomogeneizza, ti lascia, ti diventa processo di creazione di forme diverse di percezione di soggettività che ovviamente spesso e volentieri producono forme di collisione e di dumping interno, no? E la strategia individuale poi si traduce nel trionfo non del riconoscimento dell'individualità, che è l'elemento positivo e che significa autodeterminazione della persona con le sue specificità, ma tracima in individualismo, in lotta fra poveri spesso e volentieri. E quindi la flessibilità che tu sognavi, la libertà, diventa precarietà. Allora, su questo credo che sia fondamentale iniziare a discutere delle tematiche che prescindono dalla condizione particolare di lavoro e mettono in moto istanze di carattere, secondo me, ricompositivo, che sono le tematiche dei servizi di welfare. Ne hai fatto cenno tu prima, no? Sarei più interessato a capire queste cose qui. Io mi limito soltanto, perché non voglio portare via tempo anche ai vostri interventi, che in Italia vige una particolare situazione drammatica da questo punto di vista. Drammatica perché con l'esplosione della precarietà, e non sto qui a fare lungo la storia che è successa dal primo contratto atipico, il contratto di formazione del lavoro dell'84, per passare con tutte le trasformazioni giuslavoriste che hanno portato alla chiusura, alla pietra tombale sulla precarietà che è il Jobs Act, di fatto, no? Tutte le volte che si creava una nuova figura tipica, prima o poi, con un estremo ritardo, no? Si poneva la questione del problema di protezione sociale o di sicurezza sociale e si interveniva sulla struttura degli ammortizzatori sociali aggiungendone uno ad hoc per la nuova situazione che le trasformazioni produttive del lavoro aveva creato. Dal sussidio di disoccupazione classico, che era quello del lavoratore fordista standard degli anni 60, della grande fabbrica, si passa con la crisi del 75 alla cassa integrazione, che è un'altra forma per alcune particolari situazioni che sono create, e si passa poi a una serie di interventi che sono l'indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi, che sono le forme di intervento per quanto riguarda alcune segmenti precari del lavoro, che era la ASPI, però la ASPI non è sufficiente, per cui c'è bisogno di una nuova ASPI, quindi si crea la NASPI, ci sono la DISCOL, è venuta fuori, e poi ultimamente, faccio soltanto alcuni esempi perché la cosa è molto più complessa e più lunga, credo che Gianni Giovanelli, che è un giuslavorista, la conosca molto meglio di me, no? E poi ci sono aggiunte anche la questione di intervenire sulla povertà. Quindi il reddito di cittadinanza e di fronte allo tsunami dei lockdown della sindemia da Covid-19 anche una nuova forma di reddito che è il reddito d'emergenza. A questi sono aggiunti poi altre proposte per tamponare la situazione di povertà crescente e di situazioni di difficile gestione dal punto di vista di welfare, sia come reddito diretto sia come forme di reddito indiretto, quindi maternità, assistenza, tutte queste cose qua, no? Per cui si è parlato di reddito di quarantena, si è parlato di reddito da cura, si è parlato di reddito di artisti, forse non so se all'interno di questo settore si è parlato di un reddito di intermittenza sul modello delle lotte degli intermittenti dello spettacolo francese, eccetera eccetera. Allora io mi domando, la domanda che faccio è questa, ma credo che questa dinamica, questa ratio, questa logica che sta sotto l'intervento nel sistema di ammortizzatori sociali sia assolutamente distorta, iniqua, discriminante, deleteria e totalmente inefficiente. Allora, non sarebbe meglio iniziare che creare le condizioni, quel problema politico e il problema sindacale, per cui di fare coalizione, non soltanto all'interno dei lavoratori, ma fare coalizione fra i vari segmenti del lavoro, a partire dal lavoro cognitivo, che è quello maggiormente colpito, perché il lavoro più tradizionale qualche cosa lo sta perdendo sempre più, ma qualche cosa è riuscito a mantenere, no? E creare delle coalizioni perché si chieda una riforma delle ammortizzatori sociali verso un processo, io la chiamo una roadmap di un paio d'anni, che va verso la costituzione di un unico strumento di sostegno diretto al reddito, che non è competitivo e sostitutivo degli altri forme di reddito indiretto, no? Che è una forma di reddito minimo il più possibile incondizionato e che mette insieme tutte le forme di indennità di indennità di disoccupazione, ASPI, NASPI, DISCOL, eccetera, e che faccia partire il presupposto che è alla base del concetto di, secondo me, dal mio punto di vista, di autodeterminazione, no? Di un diritto a un reddito minimo completamente sganciato dalla condizione professionale. Cioè un reddito che va alla persona, non va al tipo di lavoro che tu rappresenti facendo quell'attività lì. Come invece che la logica della struttura degli ammortizzatori sociali oggi esistente. A seconda del tipo di lavoro che fai, ti do un palliativo, che spesso e volentieri è insufficiente, è in ritardo, crea divisione, c'è anche una gestione politica di questo, credo. No? E allora credo che sarebbe necessario, la questione politica e anche sindacale, perché il sindacato non sempre su queste tematiche c'è stato dietro, anzi, voi parlate giustamente e acte a sostegno del salario minimo, ma sappiamo per esempio il tema del salario minimo, tutte le problematiche che ha all'interno del mondo sindacale. Però adesso non voglio parlare di questo. Questo, il salario minimo, sarebbe il secondo capitolo di un reddito minimo il più possibile generalizzato, indipendente dalla condizione professionale, che interviene per le prestazioni autoriali, interviene per le maestranze, interviene per tutta una serie di altri ambiti che vivono situazioni apparentemente analoghe, ma vissute diversamente. Allora, questo credo che sia la battaglia. Da autunno credo che sia necessario riuscire a creare dei momenti di discussione, perché credo che i tempi siano maturi, per un intervento su questa tematica di welfare, non una riforma del welfare complessivo, che è una cosa molto più complessa, ma almeno su questa tematica arrivare a un processo di omogeneizzazione di forme di sostegno di reddito al reddito come diritto della persona e non diritto della condizione lavorativa. E in maniera tale che questo poi consenta anche dei margini di autonomia di gestione, minor peso della ricattabilità economica, dell'incertezza, e quindi magari creare i presupposti, è una condizione necessaria, ma non è detto che sia sufficiente, no? Per creare anche modalità di organizzazione che vanno a incidere poi sulle specifiche condizioni lavorative che di volta in volta si danno. Questo è quello che mi è venuto in mente leggendo la vostra rapporto. Vediamo qualche altra domanda e poi osservazioni. Dopo. Domanda semplice, ma semplice. La quantità di lavoratori, ci faccio 100.000 per una Brescia. Ok, la quantità. La quantificazione è complicatissima perché tutte le statistiche non fanno riferimento a queste figure, fanno riferimento al settore nel complesso, per cui è veramente difficile avere dei numeri. Noi abbiamo provato a vedere le statistiche ufficiali, però è molto difficile fare delle stime affidabili su questo settore. Soprattutto perché non parliamo solo di audiovisivo, cinematografico, spettacolo, ma perché sono tutte molte di questi lavorano anche nella pubblicità, nella comunicazione, in ambiti affini, quindi è molto molto indeterminato. Per rispondere ad Andrea, adesso tornando sul tema del welfare, noi abbiamo trattato il tema del welfare, l'abbiamo approfondito. Mentre nel lavoro dipendente c'è stata una certa omogeneizzazione degli interventi, perché la nuova NASPI è molto più omogenea rispetto a prima, è stata allargata ad imprese che prima non erano incluse, eccetera, nel lavoro autonomo si è andata avanti molto per ordine sparso. Noi abbiamo dentro il lavoro autonomo diverse gestioni che afferiscono tutte all'INPS e che hanno ognuna regole diverse. Parlando di disoccupazione, non c'è solo la Discol, c'è l'ALAS per lo spettacolo e c'è l'ISCRO per l'iscritto alla gestione separata. Tre modalità che hanno proprio delle condizioni completamente diverse e hanno un elemento comune però, che sono un po' una fregatura tutte. L'ALAS viene pagata più della NASPI e da meno della NASPI. Cioè, per costruire l'ANAS è stato chiesto un contributo che è superiore a quello della NASPI, però i diritti che vengono dati sono minori perché ci sono molto più vincoli per accedere. Però questo stesso discorso vale anche per il resto, vale per la maternità, vale per la malattia, per alcune cose anche sulla pensione. Quindi c'è un problema di unificazione del welfare, non so se si debba partire dalla disoccupazione, io partirei dalla maternità, per esempio. Cioè il fatto che ci siano ancora delle donne che non hanno diritto all'indennità di maternità, secondo me è uno scandalo, o che non hanno diritto all'indennità minima. Nella gestione separata e nella gestione dello spettacolo non esiste un'indennità minima di maternità, mentre esiste per i commercianti, per le coltivatrici dirette, per le libere professioniste con ordini e per le dipendenti. Per queste due categorie che pagano tanto e che hanno delle gestioni in attivo, non esiste. Poi certo c'è tutta la partita degli ammortizzatori. La strada che a me verrebbe da dire è: bisogna iniziare a costruire un insieme di diritti minimo. Lasciamo perdere i dipendenti, perché altrimenti i sindacati non ci staranno mai, ma per tutti quelli che non sono dipendenti. Cioè partiamo dal costruire dei paletti, quindi delle tutele minime e dei paletti sui compensi per tutti quelli che non sono dipendenti e che siano però le stesse. Perché adesso succede che se uno lavora nello spettacolo ma è anche iscritto alla gestione separata, non avrà mai diritto alla disoccupazione, anche se paga sia l'una che l'altra, perché per poter avere accesso alla disoccupazione deve essere presente solo in una cassa. Oppure che se uno cambia da un settore all'altro si ritrova che è scoperto. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che rendono di fatto impossibile accedere. L'ISCRO è stato creato con certi numeri. Secondo le previsioni, quelli che l'hanno richiesto era un decimo di quelli che erano in previsione, perché di fatto le condizioni per accedere erano troppo vincolanti. Quindi, ricordando che si tratta fra l'altro di casse in attivo, io trovo che sia vergognoso che queste casse, che raccolgono comunque lavoratori più sfavoriti rispetto agli altri, servano a finanziare casse più ricche. Ecco, partendo da questo, iniziamo a restituire quello che versiamo, e sarebbe già un primo passo, e poi omogeneizziamo, e poi anche andiamo avanti. Io sono per i piccoli passi, non per le grandi rivoluzioni, però sarebbe in realtà già un cambiamento notevole nel nostro panorama, che però si scontra contro un approccio che è molto corporativo, perché anche adesso l'indennità di intermittenza la stanno studiando per i lavoratori dello spettacolo, come se l'intermittenza fosse una caratteristica che riguarda esclusivamente i lavoratori dello spettacolo. Quindi anche questo di continuare a intervenire con degli strumenti che sono settoriali, quando invece le condizioni sono molto più trasversali, dovrebbe essere abbandonato, a mio parere. Allora, aspettiamo altre domande. Intanto volevo rispondere anch'io, Andrea, sulla cosa dei settori, no? Cioè, una cosa che abbiamo visto anche, fa piacere che è venuto Jacopo, che è insomma, una persona che abbiamo intervistato, è che in questi ambiti così diversi, no? Che uno dice, vabbè, i problemi sono più o meno gli stessi, così ed è vero, siamo consapevoli, però proprio per capire la grammatica con cui anche confrontarsi con questi lavoratori, capire anche in editoria libraria, lo stiamo sperimentando, cioè il fatto di conoscere le condizioni di lavoro, conoscere i tempi, conoscere così è fondamentale, anche solo per costruire un minimo di riconoscimento reciproco. È un po' quello il senso di questo un po' cambio di prospettiva, di strategia di ACTA, che prima cercava di guardare soprattutto a quelle cose che hanno in comune settori diversi, adesso a quell'approccio lì unisce anche queste attenzioni per i singoli settori, perché ci si rende conto che altrimenti non ci si riconosce neanche come liberi professionisti uguali. Si dice, vabbè, sì, io sono un videomaker, tu sei una redattrice, vabbè, amen. Invece, nel senso, ragionando per settori, costruendo anche uno sguardo sui settori a partire dal lavoro, stiamo vedendo che si sta, cioè, insomma, le persone si trovano e trovano anche dei modi di parlarsi in maniera diversa. Cioè, io parlando con Jacopo, che mi raccontava di questi orari di lavoro, cioè, incredibili, cioè, tipo, non so, tipo 12, 13, 14 ore di questo settore, in cui magari lavori 3 giorni e poi dopo non lavori 10 giorni. Insomma, è anche, immagino, anche complicato incontrarsi con le persone. Non so se vuoi dire qualcosa su come ve la cavate. È stato estremamente interessante, insomma, intervistare. Ma diciamo che in generale trovo che abbiate colto nel segno, o quantomeno mi ritrovo in tutto ciò che avete detto. Io vi presentate? Ah, scusate, io sono l'idea che lavoro fa, Jacopo, faccio il direttore della fotografia in ambito principale, sì, anche lì è un ambito piuttosto variegato, principalmente documentario d'autore, ma anche ovviamente per necessità pubblicità e altri tipi di lavori commerciali, nell'audiovisivo comunque. E, io non, cioè, francamente però non ho grandi speranze, francamente. Cioè, nel senso, la percezione che ho è che, cioè, io poi ho fatto il passaggio, ho cominciato come maestranza, ho fatto per tanti anni l'elettrico sui set, e coltivando sempre il desiderio di passare alla direzione della fotografia, e da quando sono passato a direttore della fotografia i miei diritti e anche la mia possibilità di avere uno scambio con i miei pari è enormemente diminuita. E la percezione che ho è che davvero ci sia un'ignoranza anche endemica nel mio settore riguardo a quelli che sono i diritti e i diritti da pretendere. Si ha veramente poca coscienza sia dal punto di vista legislativo che anche, cioè, davvero tutti hanno l'impressione un po' di lavorare per sé, ok, diciamo nell'ambito quantomeno dei filmmaker o degli autori, e quindi sono rare le occasioni in cui si capita di discutere, e quindi di conseguenza le domande non vengono neanche poste, per cui per esempio quando poco fa dicevate bisognerebbe, però la spinta da dove arriva? Deve arrivare da chi lo fa questo lavoro, cioè, perché io francamente se voi volete mettervi in questo inferno a cercare di migliorarlo, cioè, complimenti, però quante richieste da parte di gente che viene dal mio settore vi sono arrivate? Cioè, bisogna conoscere i lavoratori di questo settore per capire quali sono le loro domande e perché i lavoratori capiscano che domande devono fare. È davvero, cioè, siamo secondo me a un livello veramente prossimo allo zero, cioè, francamente un po' la vedo così. Io stesso riconosco di avere poca coscienza a livello legislativo, cioè, ma perché, come ben sappiamo, non basta essere di buona volontà per colmare quelle che sono delle problematiche che sono di un settore e non del singolo lavoratore. Però, insomma, cioè, rimboccarsi le maniche è sempre bello, quindi, cioè, l'intenzione è sicuramente di migliorare, però francamente, insomma non sono molto speranzoso negli ultimi anni. Esatto. Io sono inguaribilmente ottimista, quindi non mi ci ritrovo, perché altrimenti non sarebbe stata in ACTA, soprattutto quando si abbiamo fondata. Effettivamente noi abbiamo iniziato questa ricerca senza un coinvolgimento diretto dei lavoratori. Adesso c'è un nucleo che forse dico, entro ACTA si svilupperà, che è legato all'audiovisivo, che è un particolare gruppo che sono dei sottotitolatori, quelli che mettono i sottotitoli nelle serie TV soprattutto. Quindi hanno una condizione molto particolare, perché loro non rientrano nell'inquadramento dello spettacolo, quindi non hanno tutto questo inquadramento di favore che riguarda gli altri, e si ritrovano anche ad avere un committente che è quasi monopolista a livello mondiale, che ha sede fuori dall'Europa e che quindi, come legge del lavoro, applica quella di Singapore, che non è proprio la più avanzata nel mondo, diciamo, ecco. E questi adesso hanno deciso stanno cercando di fare massa comune. È chiaro che non sarà semplice, però possono agire in alcune direzioni. La prima direzione, che è quella che ha seguito Red ACTA, quella di sensibilizzare le altre persone che lavorano nel settore, quindi spiegare che cosa, diciamo, dare dei parametri di riferimento per dei compensi dignitosi e chiedere alle persone di starci sopra. La seconda strada che interessa a questo gruppo è quello del diritto d'autore, perché appunto lì loro vengono chiamati a cedere in toto i loro diritti, però appunto sulla base di questa nuova direttiva europea sembra che questo non sia fattibile, cioè la direttiva europea mira proprio a evitare che ci sia una cessione forfettaria dei diritti al committente, che altrimenti ce li ha perpetui e in qualche modo si appropria di tutto quello che viene prodotto in Europa, visto che sono quasi tutte statunitensi, e quindi l'Unione Europea sta cercando di difendere un po' il territorio nazionale. Vedremo se si andrà avanti, io spero di sì e spero che sia il primo gruppo e che poi a questi se ne aggiungano altri. Ma scusa, è quello che si è scritto a ACTA ma lavora in Giappone? Sì. Uno di questi sì, è scritto in ACTA e lavora in Giappone. Perché sono sparsi in tutto il mondo questo gruppo qua, quindi è ancora più difficile, perché c'è il diritto del lavoro, quello a Singapore è ottimo, e in più questi stanno, sono magari italiani o italiane, però sono ovunque, quindi è... Però è interessante che loro, la loro, come sono incontrati, cioè hanno queste piattaforme su cui lavorano e che di fatto mettono a valore anche la collaborazione tra di loro, perché magari sulla stessa serie TV è meglio per, insomma, per velocizzare il lavoro che lavorino più persone, che collaborino, che si scambiano, che abbiano magari della messaggistica interna in cui possano parlare, possano così per produrre valore, e loro sono riusciti a, insomma, usare quei canali lì per fare una coalizione anche, insomma, abbastanza interessante. Anche come... se embrionale. Sì. Sì, embrionale, però è abbastanza interessante. E forse una cosa che non abbiamo detto, sempre su questo dumping così, è il fatto che a Milano... Cioè, le maestranze hanno questa APMAL, che è questa associazione molto forte nella pubblicità, che riesce a garantire dei compensi ancora abbastanza alti, e quindi c'è un dumping verso le altre città, cioè che si cercano lavoratori magari fuori Milano, a Roma, così. Quindi la situazione è frastagliata anche a un livello banalmente territoriale, si possono notare delle differenze... evidente. Per quanto riguarda quello che ha detto Jacopo, cioè nel senso, noi abbiamo anche questa cosa di redact, cioè che siamo, cioè, riusciti un po' a smuovere un settore che, per quanto riguarda l'individualismo, la passione per il lavoro, il libro, che bello, così, cioè veramente messi da panico, insomma. Però insomma, in 3 anni insomma, riusciti un po' a cambiare alcune cose. Adesso abbiamo un paio di programmini interessanti che potremo svelare tra un po', e, però insomma, cioè, da quello che abbiamo visto, quantomeno i redditi nel audiovisivo sono più alti, quindi nel senso che in teoria magari uno ha un pochino più di tempo libero a dedicare a parlare con gli altri, ecco, poi con gli orari folli incredibili, però non lo so, cioè, almeno quello forse potrebbe essere. Forse non hanno toccato il fondo. Più che una domanda, volevo dare anch'io un po' un... Mi presento, sì, Antonio, regista disoccupato che lavora in altri settori per tirare a campare, diciamo così. E io un'altra riflessione che mi sono fatto è un'altra divisione che trovo in questo ambito è quello tra quelli che potremmo definire gli interni e quelli che sono gli emarginati, insomma tutti quelli che anche con una professionalità anche molto alta, magari rispetto anche a tanti arrivati più di recente, sono comunque per diverse ragioni esclusi da quello che è, diciamo, il processo lavorativo vero e proprio. In particolare io, essendo di ambito autoriale, questo penso che sia molto più alto come numero nell'ambito degli autoriali, proprio perché sono persone che magari come me tentano di lavorare più su bandi, cercare di farsi produrre i propri lavori, quindi investendo le proprie energie più su quello che su altro, e quindi magari spesso essendo anche costretti a dover cercare altri tipi di lavoro, come può essere l'insegnamento. Io ad esempio sto tentando più nell'ambito dell'insegnamento, comunque ho lavorato nelle scuole, ho fatto il bidello e quindi diciamo... mi procuro da vivere in questo modo qua. E all'interno di quest'ambito io penso che la situazione sia abbastanza catastrofica, nel senso che al di là della frammentarietà, di proprio magari neanche di conoscersi, quindi di non avere neanche un luogo di lavoro dove aggregarsi perché il lavoro neanche c'è. Un'altra questione è che spesso e volentieri, come già accennavate, in questo settore, nell'ambito degli autoriali, io penso che ci sia la composizione anche sociale, almeno dalle varie esperienze di festival, insomma piccole esperienze dove ho potuto presentare dei lavori, la tendenza e l'impressione che ho è che spesso e volentieri la maggior parte di queste persone provengano da situazioni in cui non c'è la necessità magari anche di dover stare ogni mese a doversi organizzare per trovare un lavoro, quindi c'è anche una tendenza alla fine, anche poi in più c'è comunque un meccanismo di guerra, di farsi le scarpe l'uno con l'altro per spartirsi poi alla fine, nell'ambito poi del cinema cosiddetto d'autore, così parliamo veramente di briciole, di nulla in confronto agli ambiti che avete citato prima come Netflix e produzioni grosse di questo tipo, parliamo veramente di... Sull'ambito invece di quelli interni, io una riflessione che mi sento di dare è che è vero che i compensi spesso e volentieri in questo settore, almeno dalle esperienze che ho avuto e che di persone che conosco, tutto sommato sono ancora considerati buoni. Io però penso che anche trovo catastrofica lì la situazione soprattutto sulla questione degli orari. Cioè questa problematica io penso che, io allora premetto che io non credo nell'organizzazione di tipo sindacale, mi sono sempre battuto, insomma, come compagno per cercare di spingere i lavoratori a mollare le organizzazioni sindacali e cercare di creare le loro situazioni di auto-organizzazione, di lotta. Detto ciò, penso anche che esperienze di sindacalismo di base, come ad esempio il SICOBAS, così, che in alcune situazioni hanno creato delle rotture non da ridere, possono essere interessanti, e secondo me una battaglia sul rispetto di orari di lavoro umani debba essere fondamentale, e su questo secondo me io penso che se qualcuno interno abbia la forza, la voglia di farlo, io penso che tante, almeno persone con cui io ho avuto modo di parlare, questa problematica la percepiscono, quindi secondo me se si vuole intervenire nell'ambito di quelli che sono già interni, si deve partire dalla questione di riduzione dell'orario. Ma io parlo di persone, ad esempio, tutti gli autoriali che non lavorano più, che lavorano più che altro su progetti singoli, probabilmente in loro, che cercano di farsi produrre o di scrivere per poi venderli a qualcuno. Mentre parlo di interni, persone che abitualmente... più che altro magari le maestranze, che lavorano spesso e volentieri anche magari su progetti altrui, o comunque di autori meno affermati, magari già un autore più affermato che lavora regolarmente può essere, almeno io, poi non è una divisione scientifica, era un contributo che mi sono sentito... No, che la cosa, diciamo, che... sottolineavi sulla provenienza di chi può permettersi di fare questo lavoro, cioè assolutamente vera, forse non l'abbiamo messa abbastanza in luce, però quello che anche prima diceva Anna è che questa democratizzazione tecnologica ha portato a quello che si può chiamare un nuovo elitarismo, ovvero un mercato in cui tanta gente può fare questo lavoro, lo si fa anche se non si deve, insomma, vivere di quel lavoro, poi sul resto... Abbiamo anche scovato, adesso forse Anna si ricorda il dato, una ricerca degli anni 70, così, che censiva l'origine di famiglia, diciamo, dei registi italiani dell'epoca, beh, immagino, questi tutti uomini in quel caso, e c'era una percentuale di origine proletaria, veniva definita l'1%. Uno su 70, insomma, no, quindi pochissimo. No, bisogna, è chiaro che bisogna proprio... grattare, faccio per esempio un livello, come dire, di intervento su cui si può certe volte costruire qualcosa, e questo è un settore finanziato dal pubblico, cioè abbiamo una componente di finanziamenti pubblici che non è indifferente, che sono gestiti da queste film commission regionali. Ora, noi diciamo, la film commission dovrebbe dare dei finanziamenti soltanto alle produzioni che si impegnano, per esempio, a rispettare i contratti nazionali o comunque che si impegnano sostanzialmente ad avere un trattamento delle persone, come dire, ad un certo standard, insomma. Anche questo è una piccola cosa, però, perché di fatto poi queste forme qua di finanziamento delle film commission sono delle forme che anche di protezione del mercato locale, no? Perché loro ti dicono: ti do la finanziamento, però tu il fonico, cioè, tutti questi li prendi da gente che stanno attorno. E non basta, diciamo, questa operazione, come dire, localistica, dice, devi impegnarti a questo punto di rispettare, diciamo, almeno i contratti, diciamo, degli standard, diciamo. Quindi ci sono tutta una serie di nicchie sulle quali puoi intervenire, se non so se fare collisione, ma comunque, insomma, dire, riusciamo in qualche modo a smuovere, anche se effettivamente molti ci hanno confessato la rassegnazione che tu hai, no? È difficilissimo. E poi comunque la storia dell'orario di lavoro ha perfettamente ragione, insomma, cioè, puoi fare delle giornate che non finiscono mai, insomma. Si gira e si va avanti fino alle 2 di notte a girare, insomma. Anche qui nei contratti hanno fatto dei limiti agli straordinari, no? Sì. Alcuni, però appunto l'hanno fatto solo per le maestranze, per gli elettricisti, macchinisti, eccetera, insomma. Poi vale il fatto che tante condizioni gli autori non hanno straordinari, esatto. E poi comunque non ce li hanno gli autonomi. Esatto, quindi anche questo cambia, perché anche tornando al discorso Film Commission, c'è anche a livello nazionale, ci sono i crediti fiscali che sono molto rilevanti, sono circa il 30% del costo di un film, però pongono delle condizioni sul lavoro, ma sul lavoro dipendente. Cioè il problema è che siamo ancora impostati come se il lavoro fosse tutto dipendente, anche in un settore il lavoro dipendente ormai tende a diminuire sempre più. Quindi se questi vincoli ci fossero non solo per il lavoro dipendente per cui chiedi il DURC, ma ci fossero anche per chi non lavora come dipendente, cambierebbe. No, questo ci riporta anche la ragione per cui noi sosteniamo il discorso sul salario minimo, no? Diciamo, scusa, voi siete autonomi, che cazzo interessa il salario minimo? Perché se tu introduci il salario minimo, indirettamente questa cosa si riflette sulle tariffe professionali, insomma. E sappiamo quanto è dura sta partita, perché non soltanto il sindacato non accetta, ma i sindacati stanno firmando fior di contratti corsari. Cioè, non è che ci sono solo i contratti pirata, ma ci sono i contratti corsari firmati dalle 3 confederazioni substandard. Questo andiamo quasi in direzione opposta. Tanto grazie. Volevo chiedervi se ci dedicate qualche parola a raccontarci cos'è ACTA e che cosa fa, che non è, magari non è ovvio per tutti, per me non lo è almeno. E poi volevo chiedervi in particolare se avete fatto delle ricerche o analisi sulle tipologie di lavori esistenti all'interno, per esempio, di una produzione o di un progetto produttivo. Ci sono alcune figure, non so, il trovarobe piuttosto che il direttore della fotografia in movimento, che possono comparire nei titoli di testa, e non vorrei, ero curioso di sapere se sono considerate. Anna, perché hai fondato ACTA? Cosa ti è capitato, allora, in mente? Io non sono mai stata brava a fare pubblicità ad ACTA, questo è un po' un mio limite. Allora, avevamo fondato ACTA ormai 18 anni fa perché nessuno si occupava di chi era freelance, sostanzialmente. Eravamo andati dai sindacati, avevamo chiesto, ma insomma ci aumentano i contributi, non ci arriva niente di diretti. E loro ci guardavano stralunati e dicevano: ma chi siete? Dopo aver provato più volte abbiamo deciso di creare un'associazione. E poi pian piano è tutta basata sul lavoro volontario, e l'idea iniziale era di occuparci di freelance. Adesso forse non siamo neanche più associazione di freelance, diciamo che ci interessa tutto il lavoro che non è standard, cioè tutti quelli che sono sul mercato, perché anche un lavoratore a tempo determinato è sempre sul mercato, perché lavora un mese e poi di nuovo è sul mercato e deve trovarsi un altro lavoro. Ecco, ci interessa questo tipo di lavoro qui, cioè quelli che non sono tutelati dal sindacato, perché adesso tutti dichiarano di occuparsi anche di questo lavoro qua. Se ne occupano i tre sindacati, se ne occupa la CNA, se ne occupa l'Unione la Confcommercio e così via. Però di fatto per tutti gli altri il target principale è sempre un altro. E quindi quando c'è una questione che potrebbe, secondo loro, mettere in discussione i diritti acquisiti dai dipendenti, non ne vogliono più parlare. Per questo che io sono per l'approccio di lasciamo stare il lavoro dipendente dov'è, non lo tocchiamo, però cerchiamo di fare coalizione per chi è sul mercato, per creare un minimo di condizioni per questi qua. Ci siamo sempre occupati dei temi del welfare e dei compensi, cioè siamo sempre stati un po' molto con i piedi per terra, con un'ottica di piccoli passi, quindi siamo riusciti ad ottenere lo statuto del lavoro autonomo, che non ha stravolto la nostra vita, che però qualche cosina ce l'ha data, qualche diritto in più, anche ci siamo battuti per la maternità inizialmente che non c'era e per la malattia che non c'era. Insomma, qualcosina l'abbiamo ottenuta, non abbiamo stravolto il mondo, però pian piano. La gestione separata, il contributo alla gestione separata. Il contributo alla gestione separata. Grande vittoria. Sì, abbiamo ottenuto anche la riduzione del contributo alla gestione separata, sì. Però. No, no, noi non avevamo nessuna cassa, è stata creata la gestione separata per dare una cassa di previdenza. In realtà poi di volta in volta si aumentava la contribuzione perché si era visto che era un modo facile per raccogliere soldi, per fare cassa, infatti lo chiamavamo il bancomat dell'INPS, però abbiamo iniziato a chiedere di ricevere qualcosa in cambio di questi soldi che noi versiamo, però tuttora diciamo che il saldo fra quello che noi versiamo e quello che riceviamo è largamente negativo per noi. A che cosa? Noi accettiamo tutti quelli che si vogliono iscrivere, cioè basta che si riconoscano i nostri obiettivi, non andiamo a chiedere né che cosa, né se hanno la partita IVA, né se è un problema. Infatti appunto abbiamo accettato anche uno che lavora in Giappone. No, diciamo la cosa interessante è che a un certo punto ci siamo guardati in giro, no? Ma è possibile che non ci sia da nessuna parte un'organizzazione, chiamiamola sindacale, di freelance, eccetera. E abbiamo così scoperto questa grande organizzazione americana, la Freelancers Union, con la quale abbiamo stabilito una specie di gemellaggio, una roba così, di sorellanza. Però è stato interessante perché hanno, cioè loro sono diventati importanti, insomma la presidentessa di questa associazione è considerata una delle donne più importanti in America, addirittura è entrata nel board del Federal Reserve, insomma. Si è visto che questo tipo di sindacalismo può funzionare, ecco, insomma. E poi abbiamo contribuito a fondare una rete europea. Quella invece è andata male perché abbiamo pescato parecchie associazioni che sembravano assomigliare a noi. Poi invece, non so, in Inghilterra, per esempio, che è stata la prima che abbiamo contattato, abbiamo scoperto che questi qua erano dei thatcheriani convinti, ma affanculo. Mi ricordo questo qua, il presidente di questa associazione inglese era uno invece simpaticissimo personalmente, no? E mi ricordo una sera andiamo a cena e mi dice: cazzo, dice, ma sai che la Thatcher è veramente una gran donna? Dico: cazzo, dico, ma io ho fondato Potere Operaio, hai idea cos'era Potere Operaio, stronzo? È stato divertente perché poi dopo. E sta roba infatti è andata a puttana, no? Si è sciolta sta rete. In realtà è andata via perché c'è stata la Brexit e quindi loro se ne sono andati. Via, sì. Comunque voglio dire, per dire, il mondo, questo mondo associativo, insomma, ha una serie di aspetti interessanti che bisogna indagare, cioè bisogna entrarci e noi siamo stati un po' quelli che hanno fatto la battistrada. Comunque Jacopo potresti iniziare tu. E Ma come funziona? Diciamo che abbiamo cominciato 3 anni fa con un'inchiesta e delle riunioni, erano inizialmente segrete, carbonare, perché è un settore in cui, vabbè, non so se è anche audiovisivo un po', però è come lavorare per la mafia, no? Cioè un po'... No, editoria libraria, abbiamo preferito rimanere su quello perché editoria periodica c'è l'ordine fondamentalmente che cambia un po'. Sì, esattamente. Però secondo me Red Act è anche un bel modo di raccontare uno dei problemi di Act e una delle strategie, cioè nel senso che quando tu ti prendi come compito o missione quella di rappresentare il lavoro autonomo o comunque atipico, così non ordinistico, ti trovi a avere a che fare con professioni che spesso cambiano, anche come abbiamo visto in questa inchiesta qua su audiovisivo, a ritmo anche della tecnologia, quindi sostanzialmente tu il lavoro di rappresentanza lo devi accompagnare necessariamente con il lavoro di inchiesta, cioè nel senso di andare a capire chi sono i lavoratori, come sono, dove si trovano, e vabbè, tutte queste cose qua non sono per niente scontate, cioè nel senso anche solo sapere dove sono, spesso sono a casa e quindi sono difficili da tirare fuori, cioè anch'io mi ci metto tranquillamente. E vabbè, quindi Red Act è partita da una cosa così, una situazione abbastanza tragica, anche perché il ruolo, questo l'abbiamo toccato come tema, però anche in audiovisivo è grave, cioè il ruolo degli enti di formazione nella situazione attuale è molto carente, diciamo che c'è una grande quantità di master, scuole, cose così, anche molto costose, che però non hanno evidentemente capito, mettiamola così per essere buoni, che per fare questo tipo di lavoro c'è un lavoro che devi fare per fare il lavoro, cioè devi sapere come aprire la partita IVA, quali sono i tuoi diritti, come fare una fattura, sono mille cose anche minime su cui uno che arriva sul mercato completamente, insomma, digiuno di queste cose, spesso rimane fregato, e quindi c'è il discorso del dumping che citava Andrea, eccetera. Abbiamo visto anche scuole, editoria, nel nostro caso, che davano delle tariffe di riferimento, perché ovviamente in questi ambiti non ci sono tariffe di riferimento anche per questioni di legge europea sulla concorrenza, che le davano la metà di quelle che avevamo registrato noi nel nostro sondaggio. Quindi, cioè, già quelle che registravamo noi sono basse. Questi mandavano della gente che magari aveva pagato 5.000 euro per fare una scuola di editoria, e diceva, guarda, per fare una prima bozza devi farti pagare così. Che è... Niente. Ovviamente è chiaro che poi le persone che accettano i lavori a basso, cioè, c'è anche una questione di consapevolezza, di rendersi conto della vita, il tempo, cose così. Però diciamo che se tu prendi così tanti soldi, non dai neanche gli strumenti minimi, è chiaro che insomma contribuisce a peggiorare la situazione del mercato. E Red Act da questa situazione tragica siamo riusciti da un lato a raccogliere tutti i compensi, cioè comunque la maggior parte degli editori più importanti, e a metterli sul nostro sito, un database che viene aggiornato continuamente. In questo modo uno può vedere sia cosa offrono gli altri e quindi sapere se quello che stanno offrendo per una singola prestazione ha un valore o meno, ma anche vedere negli anni come è cambiato il mercato. Dovevi vedere nel 2019 Mondadori per quella cosa lì quanto offriva, e così ti puoi rendere conto tutte informazioni che prima non c'erano. Quindi il paragone col mutualismo è un mutualismo anche delle informazioni, che nel nostro settore sono fondamentali. E poi la cosa che abbiamo un po' cambiato così è di avere una presenza fisica con le persone. Cioè noi abbiamo come missione, la stiamo facendo adesso, una riunione al mese a Milano, Torino, Bologna, le città dove l'editoria libraria è più forte, per cercare di ricostruire anche quei legami, quelle relazioni che questo tipo di lavoro non prevede fondamentalmente. Magari si parla per anni con una persona solo via mail, non ci si conosce dal vivo. Quindi per fare coalizione, per così, i rapporti umani, lo sguardo, così sono fondamentali, crediamo. Quindi anche pur con la pandemia di mezzo siamo riusciti a, insomma, ampliare queste riunioni. E vabbè, abbiamo fatto anche una prima esperimento di azione collettiva, vabbè, che abbiamo già parlato qua alla Calusca, però contro il Saggiatore, che vabbè, insomma, una storia di cui trovate dettagli su internet, però che è stata abbastanza divertente, e che è servita un po' da precedente, perché questa casa editrice ha fatto un comportamento molto scorretto con i lavoratori autonomi e ha avuto un danno di immagine notevole dalla nostra azione, quindi diciamo che è funzionato come colpirne uno per educarne 100, un po', però. Una roba così. Però vabbè, insomma, poi stiamo lavorando anche, riusciamo comunque a aggregare anche personalità diverse, anche età diverse, ambiti diversi. Adesso stiamo facendo un'inchiesta sull'editoria scolastica, che è un ambito che ha che è molto importante, in cui anche la tecnologia ha avuto un impatto notevole, molto anche sui prodotti, e che però abbiamo sottovalutato per anni, perché il gruppo fondamentale di Redacta era, lavorava per la Varia, per Mondadori o così, non per Mondadori Educational. E quindi continuiamo sia a studiare i singoli settori così, ma anche a livello locale. Per esempio Silvia ha preso in mano questa inchiesta sulla città di Roma, dove ci sono delle dinamiche tragiche a livello editoriale, però stiamo anche facendo tante interviste. Però è un lavoro di coalizione che si muove molto a ritmo anche di conoscere in persona, un'intervista, poi la riunione, poi il gruppo, poi c'è un lavoro lento, però bello, cioè nel senso è molto divertente. Cioè, per noi che eravamo abituati a lavorare sempre da soli, sempre a pensare che se qualcosa non andava, alla fine il problema eri tu, perché fondamentalmente non eri abbastanza bravo, non eri abbastanza veloce, non eri abbastanza... Cioè, avere comunque qualcuno con cui confrontarsi sempre, una rete di questo tipo, cioè, per noi ha cambiato veramente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Cioè, quindi, ovviamente stiamo tentando di fare dei tentativi anche di contrattazione collettiva più ampia, però su quello siamo ancora alle fasi iniziali. Insomma, in 3 anni con la pandemia ci sembra abbastanza buono, però vorremmo fare molto di più in realtà, perché c'è un'urgenza di aumentare i redditi, quantomeno evidente, insomma, grave in questo momento. Quindi. Ah, madonna, da dove vengono? Oh, vabbè, vuoi sapere quanto? Allora, no, dato che purtroppo citiamo sempre, che è dall'ultimo sondaggio che abbiamo fatto, che adesso dobbiamo rinnovarlo questo sondaggio, perché è un po' vecchio, dato 2020, diciamo la maggior parte delle persone che lavorava a tempo pieno per editoria libraria, quindi tra le 25 e le 55 ore, che è un tempo pieno un po' lungo, mettiamola così, e guadagnava sui 15.000 euro lordi l'anno. Non so se siete pratici, però lordi vuol dire, non so, 10.000 netti. La maggior parte vive in città del nord, con un costo della vita che conosciamo, perché viviamo qua, immagino. E quindi, insomma, è una situazione grave, insomma, è evidente che c'è un problema. E questo. Altre domande? Ma a parte sotto i trovatori, abbiamo trovato, facendo le interviste, in realtà ce ne siamo dimenticati, un altro gruppo di animatori che anche un po' prendendo spunto anche da Redacta, dal nostro sito, così, avevano in mente di fare qualcosa. Dopo per un anno li abbiamo sentiti e poi però ci hanno ricontattato e stanno veramente pian piano anche loro, pezzo dopo pezzo, persona dopo persona, ricostruendo un gruppo. Così, quindi qualcosa evidentemente si muove. Poi il valore anche di incontrarsi così e scambiarsi anche delle pratiche di azione concreta, no? Che magari, e quindi per esempio anche il gruppo della scolastica adesso sta facendo un lavoro, cioè, molto di qualità, magari molto superiore, così, perché ha imparato un sacco di cose che noi abbiamo sbagliato, che insomma, quindi, però c'è, cioè, sull'audiovisivo non so, cioè secondo me la ricerca adesso magari scriveremo altri articoli così, però ci piacerebbe vedere, insomma, un po' di cose un pochino più concrete, cioè di vedere quello, perché è chiaro che è importante capire meglio così, però a questo punto manca un po' una base. Cioè il fatto che nessuno di noi quattro lavori per l'audiovisivo è un problema, è la cosa che un po' distingue anche dall'esperienza di Redacta, che non è stata un'autoinchiesta, e quindi adesso l'obiettivo è catalizzare un'azione, insomma, quantomeno una prima aggregazione, poi si vede, insomma. Dovremmo comunque fare un po' di proposte adesso sulla scia di questa ricerca, e ci piacerebbe coinvolgere voi che lavorate nel settore su questa parte, diciamo, più propositiva. Sì, sono proposte di politiche del lavoro, ma anche appunto tocca il welfare, tocca la storia dei diritti d'autore, cioè sono proposte, insomma, concrete su cui speriamo di trovare consenso e di trovare interlocutori soprattutto. Insomma. Però insomma si può, ecco, io capisco lo stato d'animo molto, come dire, pessimista, eccetera, però insomma dai e dai si può, si può. Ah sì, sulle figure. Ah sì, è vero. Quelle effettivamente ne abbiamo individuate parecchie, ma è vero, come dici tu, che poi saltano fuori delle figure che non te le aspetti, che le stessi, diciamo, poi non te le dicono, no? Dici, ma sì, c'è anche, come tu chiamavi, direttore della fotografia? Trova robe. No, in movimento, sì, in movimento. Sì. Ma no, è vero, cioè, è una cosa che deve andare avanti e alla fine saltano fuori queste figure. Noi credo che alcune le abbiamo individuate, non siamo mica sicuri che sono tutte, eh. Cioè, a un certo punto abbiamo mollato su questo aspetto, cioè perché mi siamo resi conto che era una cosa veramente enorme, quindi per cercare di tirare fuori qualcosa abbiamo deciso di concentrarci magari su alcune per provare a fare delle generalizzazioni di un minimo interessante, che non so, un po' quello approccio. Ma in realtà abbiamo fatto interviste anche su, sì, per autori, per la televisione, sceneggiatori, quindi pre-set, ma anche sul post. Nell'indagine si trovano anche, beh, la cosa del montaggio lì, la cosa, il cambiamento tecnologico è stato una cosa, cioè, forse è il cambiamento più violento che abbiamo visto. Cioè, c'è questa persona cinquantenne, insomma, che ci ha detto, guardate, io sono, ho grandissima esperienza, però mi rendo conto che, cioè, un ragazzino un po' sveglio che sa usare un programma di quelli nuovi riesce a fare come o anche meglio di me. Cioè, una cosa, programmi che magari scarichi gratis o comunque cracchi in qualche modo. Cioè, proprio un, cioè, un cambiamento incredibile ovviamente per il lavoro lì. Perché, insomma. Vai Flavio, vieni. Non essere timido, vieni al microfono. Venga, venga. Si presenti anche, si presenti. No, io ho avuto un'esperienza di formazione dei lavoratori che vanno a lavorare, quindi insomma è interessante da questo punto di vista. C'era una cosa che volevo dire, una stupidaggine. Negli ultimi anni di insegnamento, che ho finito 5 anni fa, molti studenti, quando si diplomavano, chiamavano così, o avevano il diploma, o anche prima, si compravano un portatile e spendevano parecchi soldi. Era come comprarsi la zappa per andare a fare lo zappatore. Io ho avuto sempre questa impressione. Però, come diceva giustamente lui, questi qui poi sono disposti a trovare, siccome sono molto bravi a smanettare, a trovare qualsiasi lavoro che si fa in fretta, che magari io sono più bravo di quello là perché in 30 secondi faccio dei tagli che quello non li fa, oppure faccio un effetto che... Questa impressione qua è stata molto forte, che tu ti compri subito lo strumento di lavoro. L'altra sera... E quelli si craccano. No, no, ci sono varie, ci sono le variabili, ovviamente. No? Qualcuno se li compra, è un casino. Sì, sono, l'altra sera, non so, ho perso, non mi ricordo più, fa niente. Finisco qua. Se mi viene in mente ve lo dico. No, perché mi sono giusto per sé. Va bene, se ci sono altre domande, perché sennò c'è il bar aperto, possiamo anche farle mentre beviamo qualcosa, se siete d'accordo. Che dite? Chiudiamo? Vabbè, allora, grazie mille per aver partecipato, grazie a Calusca Cox, ovviamente. Il volantino dov'è? Il volantino... Sì, ma è lì, è proprio la digitalizzazione, ha cambiato anche il modo in cui si danno i volantini, quindi non li abbiamo stampati. Perché c'è avuto anche il Covid in mezzo, quindi raga, scusa per qualsiasi cosa, però in questo caso è vero. Va bene, allora andiamo sul sito a vedere. Esatto, grazie.